Amici per la pelle. Leggo nella Bibbia, in Proverbi, capitolo 17, versetto 17. L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Oggi si tende ad utilizzare la parola amicizia in maniera piuttosto superficiale. Viviamo in una società in cui abbiamo molti più contatti che in passato. Le distanze si sono accorciate attraverso tutti i sistemi di comunicazione che abbiamo. È quindi molto più facile comunicare e creare legami con un numero sempre maggiore di persone. Negli ultimi anni, con i social network ed in particolare Facebook, il concetto di amicizia si è esteso ancora. Non è infrequente incontrare persone con diverse migliaia di amici utilizzando questi servizi. Un buon utilizzo di questi mezzi può favorire la comunicazione per mantenere buone relazioni con le persone. Con persone che si trovano anche a distanza. Ma la mia impressione è che a volte, soprattutto su alcuni social network, ci sia più che altro una gara a collezionare il maggior numero possibile di contatti senza che ci sia un reale interesse. A volte si aggiungono dei contatti e non si cerca neanche di scambiare due parole per capire chi sono. Questo mi ha fatto riflettere. La mia paura è che ci stiamo abituando a relazioni sempre più numerose, ma allo stesso tempo sempre più superficiali. Abbiamo sempre più possibilità di comunicare, eppure rischiamo di essere sempre più soli. Quando abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo difficoltà a trovare qualcuno che ci ascolti, anche solo per 5 minuti. Nel tentativo di stabilire relazioni con un grande numero di persone, rischiamo di non avere più il tempo di gestirne almeno qualcuna in maniera più profonda. Credo che sia una cosa alla quale dobbiamo stare attenti. Questo verso mi ricorda che l'amico ama in ogni tempo, ovvero è sempre presente, anche e soprattutto nella sventura. Anzi, il verso dice proprio che l'amico è nato proprio per essere un fratello nella sventura. Nella mia vita non potrò avere vere amicizie con un grande numero di persone, per cui è normale che ci saranno un grande numero di relazioni superficiali. Ma è importante che io riesca a svilupparne almeno qualcuna come quella descritta in questo verso. Nell'epoca in cui abbiamo più possibilità di comunicare, rischiamo di essere scatole vuote che non hanno niente da dare all'altro. E rischiamo di ritrovarci soli quando invece siamo noi ad avere bisogno di qualcuno che ci stia vicino. Che Dio mi aiuti nella mia vita a non avere solo rapporti superficiali, ma poter essere davvero, almeno per qualcuno, un amico che ama in ogni tempo, nato per essere un fratello nella sventura.